sperdono gli accenti come sparsi ai quattro venti. Molte volte in quei momenti si costeggia verità, ricomincio dalle strofe, non coincidono le storie. Molto duro è per chi scrive rintracciare la realtà. Sparsi ai quattro venti, molte volte in quei momenti si costa.